Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di sindacato, parliamo di rappresentanza, parliamo di società ed economia, parliamo del libro di Giuseppe Sabella. Buonasera Sabella. Buonasera dottor Fabi. Giuseppe Sabella ha scritto un libro, Da Torino a Roma, attacco al sindacato, la crisi dei corpi intermedi e il futuro della rappresentanza, un'introduzione di Giorgio Squinzi, ed è un libro che racconta gli ultimi anni della vita sociale ed economica italiana sotto il profilo appunto dei rapporti tra il sindacato e le imprese, tra i rapporti tra le imprese e i lavoratori, tra i rapporti tra le imprese e la crisi economica. Giuseppe Sabella è laureato in filosofia, ma poi ha deciso di occuparsi di temi sindacali, è direttore di Think In, un think tank, un gruppo di lavoro specializzato appunto sul mercato del lavoro e sul welfare. Collabora a diverse testate, tra cui Il Sole 24 Ore, è ideatore del progetto Fenomeno Economia. E questo libro appunto racconta come il sindacato ha affrontato la crisi attuale, soprattutto con il filo conduttore della Fiat. Perché questa scelta, Giuseppe Sabella? Perché la Fiat e perché il sindacato? Ma perché, come dice Josef Schumpeter, che cito poi nel libro, l'impresa è essenzialmente quella che Schumpeter chiama distruzione creativa, no? E non c'è dubbio che in questi anni difficili il mercato in Italia, attraverso proprio la vicenda Fiat, ha rotto quelli che sono proprio gli equilibri di un sistema e di un paradigma un po' obsoleti, diciamocelo. Certo, paradigma obsoleto, cioè i riti in fondo di un sindacato che era legato ai contratti nazionali, alla concertazione, ai grandi incontri, tutte cose che appartengono un po' al passato adesso. Non condivido l'enfasi che c'è sulla contrattazione aziendale o di secondo livello, perché non credo che sia quello il reale problema. Perché dico questo? Perché in Italia non decollerà mai. Primo, per un sistema fatto di piccola e media impresa che di fatto troverà sempre molta corrispondenza nel contratto collettivo nazionale. Gli va a risolvere molti problemi il contratto collettivo nazionale, lo prendono, lo applicano ed è finita lì. In secondo luogo, le aziende non vogliono la presenza del sindacato in casa. Quindi questo è anche un indicatore che dice quanto il sindacato oggi deve rendersi più vicino a quelle che sono le istanze vere delle imprese del mercato. Ecco, ma in questa prospettiva il sindacato un po' ha perso il passo, la vicenda Fiat lo dimostra, l'incapacità di capire che andava realizzato un nuovo modo di fare l'automobile, si è sempre messo un po' di traverso il sindacato, ma forse in particolare un sindacato, non è così? Secondo me la vicenda Fiat rappresenta veramente una patologia, dove per anni c'è la tensione Fiat-Fiom e la tensione, diciamo, che c'è nel mondo della metalmeccanica è anche di respiro europeo, è sempre stato il settore più complesso, conflittuale e meno partecipativo. Detto questo, quando esplode la vicenda di Pomigliano, cioè nel 2010, lì ci sono delle contingenze veramente uniche. Per esempio, Landini è neoeletto segretario generale, certamente una trattativa locale lo vede escluso. Landini nel suo libro poi racconta, edito da Feltrinelli nel 2013, racconta che lui si è opposto con tutte le sue forze allo spostamento del baricentro contrattuale, cioè che cosa Landini non voleva. Questa violazione dei diritti che è stata raccontata è veramente una favola. Landini non voleva che si derogasse al contratto collettivo. Che attenzione, le deroghe al contratto collettivo sono modalità contrattuali differenti, non sono meno diritti, più diritti. Anzi, forse sono più diritti nel momento in cui c'è una contrattazione buona. Ecco, ma in questa prospettiva, guardando col senno di poi, in fondo Pomigliano è diventata una delle fabbriche più moderne dal punto di vista della produzione automobilistica, la Fiat è riuscita a uscire dalle difficoltà, dal quasi fallimento in cui si era trovata all'inizio degli anni 2000 e quindi in un certo senso ha vinto Marchionne, se possiamo esprimerci in termini sportivi calcistici. Beh, non ci sono dubbi, Marchionne è, come dire, il protagonista dell'economia italiana degli ultimi, oserei dire, 10 anni, ecco, ma il mio libro proprio va in questa direzione. Al di là di una vicenda complessa e in cui la Fiat ha le sue responsabilità, che secondo me sono da individuare addirittura nell'epoca pre-Marchionne, perché le tensioni che Marchionne affronta sono storiche, lui in quanto persona è colui che porta cultura innovativa in Italia, un nuovo modo di fare impresa, E come dice anche qualcun altro che si è espresso insomma sulla vicenda, Marchionne fa capire all'Italia che cos'è l'economia nel resto del mondo. Questo credo che gli vada veramente riconosciuto. Ecco, ma Giuseppe Sabella, lo ricordo, autore del libro Da Torino a Roma, Attacco al sindacato. La vicenda Fiat dimostra anche che con gli anni si è anche posta in crisi la rappresentanza in quanto tale. In fondo uno dei capitoli della vicenda Fiat è anche l'uscita della Fiat dalla Confindustria, perché voleva appunto fare un contratto che non fosse un contratto nazionale secondo i vecchi schemi. Certo, anche qua diciamo che Fiat, insomma, la sua presenza in Confindustria costava a Marchionne 5 milioni di euro, quindi non proprio due noccioline. E di conseguenza, nel momento in cui lui non trova più utilità e corrispondenza nel suo legame con l'associazione degli industriali, dice: signori, io vi saluto perché non mi siete più utili, io posso fare da me quello che voi dite di fare per me. Infatti l'attacco al sindacato è proprio al sistema confederale, e ripeto, la parola attacco, come ho già detto altre volte, è un po', come dire, parei un contropiede di una reazione del mercato nella azienda di Fiat e nella figura di Sergio Marchionne. Certamente, rispetto ad un sistema che per troppo tempo è stato consociativo tra se stesso e anche con la politica, Marchionne pone che cosa? Una rottura che oggi passa a Roma, cioè da qui il titolo, da Torino a Roma, cioè passa a Matteo Renzi, che prosegue questa linea di rottura tra la politica, appunto, il sistema confederale. Ecco, ma è significativo che la prefazione a questo libro, l'introduzione, sia stata scritta da Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, il quale ammette che anche la stessa Confindustria ha affrontato, sta affrontando una crisi di rappresentanza, guarda con affanno appunto alle forme in cui vive la democrazia intermedia, scrive Squinzi, in cui appunto i corpi intermedi sono diventati luoghi della mediazione e consultazione a palazzi dei leader, dove si preferisce la decisione e la discussione e la rappresentatività della stessa. Quindi c'è anche un problema, lo ammette lo stesso Squinzi, appunto di rappresentanza di Confindustria, che peraltro ha cambiato anche un po' pelle, si è riformata in questi ultimi tempi, ma resta un problema di fondo, che è quello della funzione dei corpi intermedi nell'attuale processo economico e sociale. Alcuni possono resistere, altri possono trovare, anzi devono trovare una nuova validità, dei nuovi principi, nuovi valori alla propria presenza. In questo senso forse sono un po' in ritardo i corpi intermedi, le rappresentanze sindacali e anche confindustriali di fronte all'evoluzione della società. Giuseppe Sabella. Beh, non c'è dubbio che innanzitutto diciamo Squinzi non poteva, per quanto io non fossi sicuro che lui accettasse di scrivere questa introduzione per il mio libro, nel momento in cui ha accettato non potevo, come dire, non aspettarmi che da imprenditore, da grande imprenditore qual è, ponesse in evidenza quello che il sistema associativo che lui conosce e vive da tanti anni ha dei limiti oggi. Certo è che la rappresentanza datoriale, proprio perché per le sofferenze dell'impresa di questi anni, sicuramente è più sensibile al cambiamento. Non che le istanze del lavoro, non che il mondo del lavoro non abbia sofferto, ma la rappresentanza del lavoro ha sempre fatto fatica a capire che bisogna favorire l'impresa oggi per far ripartire il lavoro. Ma per dirne una, cioè Matteo Renzi riesce, dopo tanti anni che ne parliamo, a decontribuire le nuove assunzioni, a tagliare completamente il cuneo fiscale, e oggi si dice sì, ma si è fatto un favore alle imprese. Per troppo tempo abbiamo parlato della necessità di tagliare il cuneo fiscale, adesso che viene fatto, anche se non in modo strutturale, i sindacati, non tutti per la verità, però insomma, attaccano il governo perché si fa un favore alle imprese. Non è fare un favore alle imprese, perché se si crea un miglioramento a livello di occupazione, questo non è fare un favore all'impresa, è fare un favore al sistema lavoro. Sì, ma è la logica della conflittualità che il sindacato non riesce a perdere, la logica del confronto, la logica un po' perversa del durare un minuto di in più del padrone, ma poi dopo, il minuto dopo, andiamo tutti a fondo. E quindi è questa vecchia logica del sindacato che è ancora un po' presente, forse molto meno che nel passato, ma c'è ancora il mito in fondo della lotta di classe. E diciamo che è un po' distribuito in maniera diversa nei vari diversi sindacati e nelle federazioni, non sono tutti uguali, ci sono sistemi di federazioni che lavorano molto bene, per esempio quello dei chimici da cui viene proprio Squinti, e devo dire che proprio i settori che funzionano meglio sono quelli che hanno più respiro europeo, mi viene da dire, quelli più vicini al sindacato europeo, penso a quello tedesco in particolare, che è molto partecipativo, e il buon risultato per il lavoro è questo che su cui bisognerebbe insistere a livello di dibattito, che dovrebbe capire il sindacato. Il buon risultato negli interessi del lavoratore nasce da una buona contrattazione, che sia collettiva nazionale, che sia collettiva aziendale, ma è la buona contrattazione che porta dei buoni risultati, a dei buoni benefit per il lavoro, e in Italia abbiamo esperienze significative. Certo, a livello locale ci sono moltissime esperienze di collaborazione tra sindacato e imprese, di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, magari al di là e al di sopra del sindacato. Forse queste esperienze potrebbero diventare delle esperienze collettive, diventare delle esperienze positive per il paese, in cui, come dice appunto Giuseppe Sabella in conclusione del suo libro, bisogna uscire dai vecchi paradigmi che non riescono più ad affrontare appunto le difficoltà della politica e dei corpi intermedi, dando una soluzione che non è solo economica, non è solo di carattere diciamo così strategico sindacale, ma è soprattutto una soluzione politica e sociale. Giuseppe Sabella. Sì, non c'è dubbio che proprio parlando di nuovi paradigmi, e credo che il nuovo modello contrattuale, come annunciato, vada in questa direzione, si debba liberare la contrattazione, cioè si debba permettere che chi lo vuole fare possa in modo agile contrattare aziendalmente. Come dicevo, ecco, le esperienze più significative che abbiamo sono di imprese grandi, e il nostro tessuto produttivo è fatto della piccola e media impresa, cioè in Germania, dove la contrattazione aziendale ha fatto ripartire l'economia, c'è la grande impresa. Indubbiamente, quindi tenendo conto delle particolarità del paese, però teniamo conto che il mondo è cambiato, bisogna cercare di adattarsi a questo mondo, ma se riusciamo anche a guidare il cambiamento mettendo al centro sempre, come sottolinea ancora Giuseppe Sabella nelle sue conclusioni, l'uomo, la persona, il lavoratore. Grazie Giuseppe Sabella di essere stato con noi questa sera, abbiamo parlato del libro Da Torino a Roma, attacco al sindacato, 150 pagine, 14,50 euro, l'editore è Guerini e Associati. Grazie anche a Carmelo Lauricella in regia, a Guido Scotti in redazione. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie, l'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.